as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui al Pane e Rose, Radio Città Fucico 103.1. Ricordo anche questa volta che per chi non potesse ascoltarci qui in radio può tranquillamente andare sulla pagina Il Pane e la Rose di Facebook e troverà la puntata e anche le altre puntate in podcast. Oggi torniamo, dopo una piccola parentesi artistica, musicale che abbiamo avuto la settimana scorsa, continuiamo la nostra carrellata a parlare della nostra condizione di metalmeccanici e l'abbiamo fatto con Michele De Palma. Siamo stati ad una iniziativa molto interessante che si è svolta la settimana scorsa a Bologna, in cui all'interno del direttivo della FIOM, fatto insieme all'AMPI, si sono presentati due progetti molto interessanti. Ne abbiamo parlato di questi progetti con Michele De Palma. Sono due progetti che comunque sono molto interessanti. Il primo, Bologna Metalmeccanica, c'è questo progetto per il recupero di tutte le fabbriche, sono circa una decina, che sono state smantellate in questi anni, un recupero urbanistico, e capire anche le motivazioni di questo smantellamento, di questa depauperizzazione industriale che c'è stata nel territorio di Bologna. E poi c'è stato un progetto interessante che io sinceramente non conoscevo, quello dei metalmeccanici della Dozza. Esiste un progetto di operai metalmeccanici specializzati che si svolge alla Dozza, questi operai che sono iscritti alla FIOM, che svolgono un lavoro di formazione ma anche di lavoro, allora lì si applica il contratto nazionale metalmeccanico. Penso che sia l'unico caso, che forse nel mondo, credo, in cui gli si applica un contratto nazionale, e loro poi fine pena molto spesso riescono a trovare un posto di lavoro qualificato come operai, visto che comunque all'interno sono seguiti dall'eccellenza della metalmeccanica, del packaging del territorio di Bologna. Però con Michele De Palma abbiamo parlato di altro. Adesso un bellissimo pezzo di Ben Harper, poi ci racconterà De Palma quello che la FIOM vuole fare in questi giorni e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. Every man's actions belong to his so we've prepared for thereafter, to each his destiny. Some people believe, and some people know, some people deceive, then some people show. Jah is never done. Jah is never done. You must do your heaviest, so many shall do none. You have got to stand firm, so many will run. Some rest their head at night, but some get no sleep at all. If you listen close to what you see, you will hear the call. Jah work is never done. Jah work is never done. Allora, siamo qua con Michele De Palma, segretario nazionale della FIOM, oggi qui in questa iniziativa a Bologna sulle radici del futuro. Con lui gli chiederemo chiaramente di parlare di quello che sta accadendo oggi in Italia, della guerra, inflazione, e di quello che la FIOM sta cercando di fare per frenare questa avanzata allucinante di quello che sta accadendo a noi come operai. Ma innanzitutto la prima questione da mettere all'ordine del giorno è il fatto che dobbiamo fare le assemblee non soltanto sui luoghi di lavoro ma nelle città, mettendo insieme la questione dell'andamento dell'inflazione con la situazione economica complessiva, con la guerra, perché le cose sono legate tra di loro. Uno, l'inflazione era cominciata a crescere già prima, perché si era determinata un'instabilità sul piano geopolitico, e dall'altro si era determinato il fatto che per questa instabilità anche il costo del gas era cresciuto. Quindi noi abbiamo avuto un problema di inflazione importata già nei mesi precedenti allo scoppio della guerra. La guerra ovviamente ha peggiorato tutto e rischia di peggiorare ulteriormente la situazione. Per questo c'è una relazione tra fermare le armi e richiedere salario ad un governo che invece è sordo su entrambe le orecchie. Adesso io so che tu sei in tour, dovrai incontrare varie associazioni, ampi. Esatto, perché la prima cosa da fare è costruire un'alleanza. Noi abbiamo bisogno di un'alleanza dall'AMPI all'ARCI, agli studenti, al Friday for Future, cioè a tutti quelli che hanno animato le piazze democratiche del nostro paese, democratiche e conflittuali, perché per poter cambiare il modello di sviluppo e per poter fermare la guerra, mi dispiace doverlo dire, ma bisognerà tornare ad iniziative di conflitto, perché altrimenti il rischio che corriamo è che ci sia un rischio di economia di guerra, e l'economia di guerra è quella che uccide la democrazia e la contrattazione. Dunque tu stai pensando a un'alleanza per poter chiedere al governo qualcosa, tipo? Cosa chiedere? Tipo, ne facciamo un punto simbolico, il 2% di spese militari, dalle spese militari vanno fatte invece in spese sociali. 2, bisogna ridurre l'impatto della tassazione sui salari più bassi. 3, bisogna introdurre una legge che renda stabili i rapporti di lavoro, come per esempio in Spagna, e non invece favorisca la precarietà. Questi sono i punti dunque che tu andrai a proporre nelle varie incontri che farai con questi, diciamo, con l'associazionismo, per cambiare i rapporti di forza, a un certo modo. Non c'è dubbio, noi pensiamo che da soli non si va da nessuna parte. In questo momento c'è bisogno di costruire alleanze, e bisogna costruire alleanze perché con questa situazione dell'inflazione noi avremo fasce di popolazione cosiddetta di classe media che finiranno in una condizione di povertà. Non potevano neanche immaginare di finire in una condizione di povertà. È per questo che noi ci dobbiamo impegnare insieme agli altri. Allora, questa cosa che tu stai raccontando assomiglia molto a quello che stanno facendo i compagni della GKN, in un certo senso. I compagni della GKN hanno fatto una cosa straordinaria, hanno preso un'avvertenza di un'azienda e l'hanno fatta diventare una rivendicazione generale. Io quello che penso è che la FIOM e in questo caso anche la CGIL devono costruire un'alleanza complessiva per cambiare il paese. Ok, dunque, ma io penso che visto quello che sta facendo Draghi e come si sta comportando Draghi, oggi l'Italia è qualcuno ha detto che è Lukashenko di Biden, non Draghi. Non penso che tu la pensi così, però chiaramente è un modo di dire. Bisognerà fare qualcosa di molto forte, no? Io penso che il Presidente del Consiglio debba innanzitutto rifar partire una dialettica democratica nel Paese, che è quella che sta mancando. Perché dalle liste di proscrizione che stiamo vedendo nei confronti di chi dissente o di chi ha un punto di vista diverso, fino al fatto che il Parlamento non è stato riunito né per discutere la guerra né per discutere di come affrontare la crisi economica e sociale del Paese, né l'avvio di un confronto vero di trattativa con le organizzazioni sindacali, credo che sia il primo punto sulla base del quale, diciamo, si bisogna richiamare il Presidente del Consiglio al rispetto della nostra Costituzione. Ci saranno delle mobilitazioni a questo punto? Queste bisogna costruirle insieme agli altri, bisogna costruire con i lavoratori, con i cittadini, con gli studenti. Dunque, conflitto, sciopero generale? Sta pensando anche a questo? Allora, tu come al solito, come dire, corri velocemente. Io la cosa che penso è che le cose si discutono e si decidono insieme. Poi cosa verrà fuori da quella discussione? Ma certo bisogna essere all'altezza dello scontro che in questo momento è in atto. Grazie Michele. Speriamo uno sciopero generale. Lo sapevo, guarda, sei terribile. I should not deputy. stasera. But I swear it was in self-defense. Oi, give it up for the main act season, please, please, please. When I bust a trigger finger, come on, man, here we go. Burst on in the line, here we go. Cause got to keep it moving. And the road to Zion, got to keep it burning. And the road to Zion, got to keep it burning. And the road, got to keep it burning. Your project or unknown in the real world, world. We just people with ideas. We just like you and me. When the smoke and camera disappear again, the real world. It's bigger than all these fake ass records. When my poor folks got the millions and my woman's disrespected. If you check one, two, my bit of advice to you, just relax. If that don't work, then do what you got to do and kick the facts. If you a liar, liar, booth, flyer, bush, crier, agent with a wire, I'ma know it when I play it. But then if you a liar, liar, mouth on fire, pants on fire, agent with the wire, I'ma know it when I play it. It's bigger than a hip, ha, hip, ha, hip, ha, hip. It's still bigger than a hip, ha, hip, ha, hip, ha, hip. It's still bigger than a hip, ha, hip, ha, hip, ha, hip. It's still bigger than a thank you. Avete ascoltato Michele De Palma, segretario nazionale della FIOM, ci ha parlato di una cosa molto molto interessante. L'intervista l'abbiamo fatta un po' di tempo fa e oggi posso annunciare che ho avuto informazioni che qualcosa si sta muovendo, nel senso che la CGIL, il più grande sindacato che oggi c'è in Italia, poi tutte le critiche che uno può fare, ma comunque riesce a smuovere ancora tantissima gente, la FIOM, diciamo, è il sindacato all'interno più attivo della CGIL sicuramente. Avete sentito De Palma, il tour di De Palma pare che sia andato a buon fine, perché chiaramente lui ha espresso una esigenza che nelle fabbriche viene fuori, nel senso che già prima, durante la pandemia, abbiamo avuto i problemi che abbiamo avuto. Poi post pandemia, questo lavoro che da una parte c'era chi faceva straordinari a go go, come nel nostro territorio, invece in altri territori, cioè, la crisi continuava. L'automotive che è in panico ancora oggi, sono stati da poco dati gli incentivi perché altrimenti avremmo avuto un collasso dell'automotive in tutta Europa, l'inflazione galoppante, il problema delle materie prime, della crisi energetica, è arrivata questa guerra, un vero e proprio massacro per tutti i lavoratori metalmeccanici, ma per tutti i lavoratori in genere, ma ormai possiamo parlare di tutti i lavoratori del mondo, per non parlare di quelli che vivono di farina, di grano, e in questo momento si rischia veramente una catastrofe umanitaria in Africa e non solo in Africa. Questa situazione è devastante e abbiamo un governo il quale spende il 2% per le armi, continua come unica soluzione a tutto quello che sta accadendo, aumento dell'inflazione e guerra sempre più devastante, l'unica soluzione è dare armi e utilizzare i nostri soldi, delle nostre tasse che tutti i mesi noi versiamo, per comprare armi, per fomentare una guerra. Poi, a prescindere uno che giudizio ha, se sta più col Donbass antifascista oppure con l'Ucraina, che sappiamo benissimo chi segue il Pane delle Rose, la mia posizione su questa Ucraina, che non ritengo che sia un paese democratico, però comunque chiaramente ha diritto di difendersi, ma certamente la soluzione non può essere solamente soldi, nostri soldi, le nostre tasse, delle armi, anche perché abbiamo bisogno di politiche invece attive. De Palma ha parlato di tre punti importanti e il primo punto è chiaramente questo 2% che non può andare a far guadagnare ancora di più le industrie delle armi di tutto il mondo, soprattutto quelle americane, ma deve essere utilizzato per spese sociali, soprattutto abbiamo bisogno che i nostri salari aumentino. C'è una campagna sulla scala mobile che stanno facendo i compagni della sinistra sindacale del giornale di marzo, invito tutti quanti a ragionare su questa campagna, a firmare questo appello per una nuova scala mobile. Io penso che in questo momento condivido i punti espressi da Michele De Palma, certamente il punto contro la precarietà è una cosa troppo importante in questo momento, abbiamo visto che la Spagna ci è riuscita, non si capisce perché in Italia non possiamo finalmente cercare di combattere questa piaga che affligge soprattutto i giovani lavoratori, ma non solo, anche quelli che hanno perso il lavoro e oggi si ritrovano precari, ancora peggio di quando erano in cassa integrazione. Io penso che questa sia una necessità. La necessità è quella di sciopero generale. Io l'ho chiesto a Michele De Palma e continueremo comunque a riproporlo, ripeto, ma oggi c'è anche da pensare, visto quello che sta accadendo, a una nuova scala mobile, che oggi sarebbe una cosa rivoluzionaria. Sono passati tanti anni da quella disfatta che abbiamo subito con quel referendum, è il momento di riprenderci quello che abbiamo perso. Un saluto compagni e ci sentiamo alla prossima puntata. A te il Pane delle Rose. Yeah. Grazie.